Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Grazie. Ho chiesto a mia moglie se voleva dire un paio di parole in inglese, non parla tanto bene italiano, ma comprende tutto, quindi state attenti, non dire niente che... Allora faremo così. Ok. Ciao a tutti. Good morning. It's good to be with you in beautiful, warm Puglia. È bello essere qui con voi in la Puglia che è calda. I originate from Cornwall in the southwest of England. Io vengo dalla Cornovaglia che è nel sud-west dell'Inghilterra. And I grew up on a farm where we had a lot of animals. Io sono cresciuto in un'azienda dove avevamo molti animali. Hundreds and hundreds of sheep. Avevamo centinaia di pecore. But the sheep on my father's farm, they knew us. Ma le pecore nell'azienda di mio padre ci conoscevano. And I woke up this morning with a little thought in my head about sheep. E mi sono svegliato stamattina con un pensiero riguardo pecore. And not about the sheep back in Cornwall. Ma non le nella Cornovaglia. But sheep here in this little town. Ma le pecore in questa città. Because Jesus said about the sheep that they know His voice. Perché Gesù ha detto che le sue pecore conoscono la sua voce. And they follow him. E seguono lui. And it continues in John 10 where it says that is what is, I mean this is my translation, but it says knowing and following his voice saves them from destruction. E in Giovanni capitolo 10 dice una traduzione che ascoltando e seguendo la sua voce li protegge dalla distruzione. And I'm glad that not only the white sheep but also the black sheep hear his voice. Ma io sono anche contenta perché non soltanto le pecore bianche, ma anche le pecore nere sentono la voce di Dio. If you're a white sheep today and you think you're doing life good. E se tu sei una pecora bianca e pensi di comportarti bene nella vita. Keep listening because he's got much more to say to you. Continua a sentire la voce di Dio perché lui vuol dire molto di più a te. But black sheep are very special sheep. Ma le pecore nere sono pecore speciali. They know they're black. Perché lo sanno che sono nere. And they know that they're outsiders. E lo sanno che sono un po' al di fuori. And they know when they're doing life not right. E loro sanno quando stanno facendo cose nella vita che non sono cose belle. But I believe too that black sheep hear the voice of the father. Ma io credo che anche le pecore nere sentono la voce del padre. So if you're a black sheep here today quindi and you know it, se tu sei una pecora nera oggi e lo sai, you will hear the voice of the father. Anche tu ascolterai la voce del padre oggi. And it's going to be a voice that says I love you, I love you, I love you. È una voce che dice ti amo, ti amo, ti amo. It's a joy to be with you. Have a good Sunday. È bello essere con voi questa domenica. Wow, una bella predica però, eh? Allora, questo era tutto. La band può venire... Ok. Beh, visto che qui nella vostra, in questa chiesa... Tutti sanno essere alla regia, sanno le cose tecniche, eccetera. Io la predica di oggi, il messaggio di oggi, è molto tecnico. Quindi se c'è qualcuno qui che non comprende tutto quello che dico, vai da una persona che ha compreso tutto quello che ho detto e fatelo spiegare la predica di nuovo, ok? Va bene? Comunque, sì, mi chiamo Gianni Gaeta, origino da Taranto, sono cresciuto a Taranto. Quando avevo 19 anni mi sono sposato in Inghilterra. E poi sposato anche in Inghilterra, quindi da 30 anni mia moglie e io siamo in Austria, dove si parla il tedesco, mia madre è francese, mia moglie è inglese, i miei figli sono nati in Austria, quindi come diceva il pastore Mirko, io sì, sono un po' confuso con le lingue, no? Quindi se esce qualche parola che non capisci no, non fa niente, diciamo, o è inglese o è tedesco o tarantino forse anche, no? Chissà. Voglio leggere Matteo capitolo 16, è un onore essere qui con voi, veramente, grazie per l'invito, ero molto contento, sono molto contento di rivedervi, mia moglie già lo sa, ne ho parlato così tanto di voi a mia moglie che è dovuto venire questa volta insieme a me. E prima che leggiamo, voglio dire questo, che mentre adoravamo il Signore, ho sentito che il Signore vuole incoraggiarvi come Chiesa, perché il pastore ha detto siamo pazzi, eccetera, ma veramente io voglio veramente incoraggiarvi a rimanere pazzi. Ma pazzi perché in questo modo pazzo, non per essere pazzo, ma perché il Signore vuole veramente usare, fare un lavoro dentro di voi, ma anche non soltanto per voi, vuol fare qualcosa in questa Chiesa, in ognuno di voi, ma anche lo vuol fare per la gente che non è qui ancora. Quindi ogni volta che tu stai andando, sei nella palestra della vita, è difficile, stai sollevando pesi, pensa a questo, non è soltanto per te che Dio vuole farti forte, ma è anche per tanta gente che stanno aspettando a voi, stanno aspettando di vedervi. E anche se sono i vostri vicini di casa e vi vedono, anche sanno che voi che siete cristiani, eccetera, ma c'è qualcosa che li ostacola di vedervi veramente. E ci sarà un tempo che vi vedranno, che questo paese, questa città, questa parte dell'Italia, l'Italia stessa vi vedrà. E il Signore vuole prepararvi. E questa Chiesa non è soltanto un posto dove viene predicato Gesù, ma viene anche predicato un messaggio di una Chiesa che è diversa. Il vostro messaggio, Dio vuole dirvi, il vostro messaggio non è soltanto Gesù, anche se Gesù è il numero uno, ma il messaggio che il mondo intorno a voi deve sentire, il messaggio che la Chiesa di Cristo, il corpo di Cristo, non è Gesù bello e il corpo non è bello. Per tanti anni è stato così, no? Gesù è bello, la Chiesa, oh mamma mia, no, ma nessuno interessa. No, no, Dio vuole dire al mondo tramite voi, non solo io sono bello, ma anche la Chiesa è bella. Ok? Amen. Sapete, quando io sono rimasto italiano, quando sono in Austria, c'è gente che mi vede muovere le mani quando predico e parlo ad alta voce, mi piace il rumore, queste cose qua. Io non mi devo forzare a fare questo, io sono così perché sono italiano, sono nato a Taranto e è così. Non mi ha mai insegnato nessuno, non sono mai stato a scuola e l'insegnante mi ha detto, guarda, ora che sei italiano devi muovere la mano a destra, mano a sinistra, no? Dicono, c'è una barzelletta in Austria sugli italiani, la volete sentire? Dice, perché gli italiani non parlano il sabato? È perché hanno le borse della spesa in mano. Non possono parlare. Comunque, è una cosa normale. Sapete, quando uno vive in una cultura, una persona non fa più caso alle cose che sono diventate normali. Voglio incoraggiarvi come Chiesa a non abituarvi al fatto che di quello che il Signore sta facendo in questa Chiesa, di quello che siete diventati. Non è normale entrare in una Chiesa e avere questa atmosfera come è qui oggi. Per te è normale, ma non è normale in Italia. Il Signore vuole che diventi normale, ma il Signore vuole che voi apprezzate la cultura che Lui ha formato e sta formando. È una cosa molto, molto potente. E questa cultura è qualcosa che Dio poi un giorno, come Lui fece con Adamo e Eva, li ha benedetti e ha detto moltiplicatevi. E ci sarà un giorno che ci verrà una moltiplicazione della cultura che Dio ha iniziato dentro di voi e in tutta l'Italia. Sento che il Signore vi vuole dire, è una cosa molto preziosa, non trattatela con abitudine, con la routine, che dici sì, vabbè, così, no, apprezzatela perché è qualcosa che Dio sta facendo, che lo sta facendo con molta cura, e date peso a queste cose. Cioè, ci sono delle cose nella tua vita che non vanno bene nella cultura della Chiesa, che so, essere positivi, essere non criticare, per esempio, quando sono con il vostro pastore, no, è così positivo, non c'è una parola di critica, è tutto incoraggiante. E questa è una cultura che abbiamo bisogno anche in Italia, anche nella Chiesa di Cristo. E quindi è molto potente. Il diavolo, a lui non gli fa niente se la Chiesa ha la cultura la cultura popolare del mondo, diciamo, non gli fa niente, ma quando la Chiesa comincia a ricevere una cultura che è diversa, che poi può diventare una controcultura e comincia a influenzare città e nazioni, questo a lui non gli piace. Perché vuole che i cristiani sono come tutta l'altra gente nel mondo, no? Il bicchiere è mezzo vuoto, non ce la faremo sicuramente, eccetera. Questa cultura qui, no? Ma Dio sta fondando una cultura dentro di voi che è molto potente, sarà la cosa più evangelistica che avete. Quello che siete sarà così una voce alta che la gente sentirà e verranno, perché la gente vuole essere in una cultura che è diversa. E la Bibbia la chiama la cultura del regno, in altre parole, ok? Va bene? Questa è una parola per voi, non è parte della predica, diciamo, la buttata dentro così come si dice, bonus. Comunque, allora, Matteo 16 dice questo. I farisei e i sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova, e gli chiesero di mostrare loro un segno dal cielo, ma egli rispose loro: quando si fa sera, voi dite bel tempo perché il cielo rosseggia, e al mattino, oggi tempesta perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere, e i segni dei tempi non riuscite a discernerli. Una generazione malvagia e adultera chiede un segno, e un segno non le sarà dato se non il segno di Giona. E lasciateli, se ne andò. I discepoli, passati all'altra riva, si erano dimenticati di prendere dei pani. E Gesù disse loro: guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei. Ed essi, i discepoli, ragionavano tra di loro e dicevano: ma perché non abbiamo preso il pane? Ma Gesù se ne accorse e disse: gente di poca fede, perché discutete tra di voi del fatto di non aver pane? Non capite ancora? Non vi ricordate dei 5 pani, dei 5.000 uomini e quante ceste ne portasse via? Né dei 7 pani, dei 4.000 uomini e quanti panieri ne portaste via? Come mai non capite che non è di pane che io sto parlando? Ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Allora capirono che non aveva loro detto di guardarsi dal lievito dei pani, ma dell'insegnamento dei farisei e dei sadducei. Alcune settimane fa ero in Svizzera, vicino Zurigo, e mi stavo preparando, diciamo, a ripartire in Austria, e mentre aspettavo alla persona che mi avrebbe portato all'aeroporto, ho cercato di fare dei biglietti del prossimo volo che stavo, diciamo, avevo piani di fare. Quindi aspettando, comincio con il mio telefono, sono andato sulla pagina di questa linea aerea e ho cominciato a fare il biglietto. Il ragazzo che mi portava all'aeroporto era in ritardo, anche se era svizzero, guarda un po', un svizzero in ritardo, è un'eccezione, no? Comunque, era in ritardo, quindi mi ha detto: andiamo, se no non ce la facciamo, c'è morto traffico, lascio tutto, diciamo, non vado oltre, salgo in macchina, andiamo all'aeroporto, faccio il check-in e arrivo al posto dove stavo aspettando di entrare, salire sull'aereo. Allora, mentre aspettavo, ho detto: ma ora vado oltre e continuo a fare il biglietto per il prossimo volo, no? Quindi prendo il telefono e vado sul sito che ero prima, e era arrivato un punto dove io dovevo premere un posto per andare oltre. E premevo e non succedeva niente. E ho detto: ma che non succede niente, ma com'è il fatto? E premevo, non succedeva niente. Vedevo soltanto la pagina, potevo andare indietro, ritornare alla pagina che avevo, ma non potevo andare oltre. Ma ero un po', come si dice, un po' arrabbiato. No? Ma che sta succedendo? Che c'è sul telefono? Pensavo che iPhone sono i migliori telefoni del mondo, eccetera. Ero molto frustrato, dubitavo in questo telefono, dubitavo, eccetera, eccetera. Ma poi ho scoperto che io non ero nemmeno online. Non era online, perciò non andava avanti. La predica di oggi si chiama La vita online. Dicevo, se tu non sai cosa significa, chiedi a casa uno che se ne intende. La vita online, ok? Ti dico già una cosa, se tu non sei un seguace di Cristo, significa che non hai la chance, non hai la possibilità di essere online nella vita. E quando non sei online, non a livello di internet, ma a livello spirituale, se non hai questa connessione col Signore, sai che succede? Le informazioni che tu ricevi sono le uniche come base per il tuo futuro. E quando vuoi andare oltre a una situazione, non riesci ad andare, vedi solo quello che è avvenuto e quello che avviene ora. Ma quando vuoi andare oltre per andare, per muoverti, non riesci a farlo. E perciò quello che predico oggi è una cosa che è molto molto importante, non soltanto per i credenti, ma anche se tu sei una persona che nella vita vuole avere successo, che vuole veramente raggiungere i suoi sogni. E sapete che molti sogni che noi abbiamo nella nostra vita non sono sogni anche come non, da non credente. Ci sono molti sogni che uomini e donne hanno, che sono sogni che Dio dice, ma che bel sogno, che bella meta che tu hai. Non è vero che quando uno non è credente, tutti i sogni che uno ha sono tutti sogni sbagliati, del diavolo, eccetera. No, no, no. Dio ha fatto l'essere umano, uomini e donne, con la capacità di avere sogni e di avere una meta, di essere creativi. Ma il fatto è questo, siccome noi non siamo online, non riusciamo a raggiungere i nostri sogni. In effetti, quando Gesù viene nella nostra vita, quello che fa è lui ci dice come arrivare al raggiungimento dei nostri sogni. Alcuni sogni non sono sogni buoni, perché Dio ha sogni migliori per te. Perciò quando Gesù, la Bibbia dice chi mi vuole seguire deve lasciare la sua vita, no? Perdere la sua vita, e prendere la vita che il Signore ti dà. Ma sapete perché? Perché la vita nostra, il nostro piano, la nostra vita è così piccolo normalmente. Paragonato con quello di Dio, è piccolissimo. E quindi la nostra vita, se noi siamo online, siamo connessi con il Signore, anche come credenti, vi dico questo, vi mostro delle situazioni qui che abbiamo appena visto, dei discepoli, seguaci di Gesù, che quando Gesù parlava, loro non comprendevano quello che stava dicendo. La storia che abbiamo letto è un po' ridicola, in effetti, no? Perché in effetti Gesù sta parlando di qualcosa di molto profondo, del lievito dei farisei e dei sadducei. E quello che dicono i discepoli, dicono, ma sai che sta dicendo? Quello ci sta rimproverando, che non abbiamo dimenticato di comprare i panini. Capito? E in altre parole, poi ci ha detto, se comprate i panini, non li comprate dai farisei e dai sadducei. Quello che stanno dicendo. Era così, no? E quindi anche le parole di Gesù non fanno senso, in effetti. Noi comprendiamo Gesù in una maniera sbagliata se non siamo online. Io voglio incoraggiare a noi tutti come Chiesa a vivere una vita online, una vita connessa, non una vita disconnessa con lo Spirito di Dio, ma una vita connessa. E quando noi siamo connessi con Dio, molte cose succedono che se no, quando siamo disconnessi, non succedono. E anche la vita cristiana può essere molto frustrante. Sì, frustrante è una parola italiana. Sì. È molto frustrante se tu non sei connesso con Dio. Succedono delle cose nella tua vita, anche Dio parla e tu capisci un'altra cosa. È successo ai discepoli. Ma Gesù era molto frustrato, perché i discepoli non lo capivano. Eppure Gesù continuava, l'ha fatto spesso, continuava a parlare in una maniera che uno poteva non, diciamo, confondere. Ti sei mai chiesto perché Gesù lo fa? Se l'ha provato una volta, i discepoli non capiscono. Io, se fossi stato Gesù, avrei sempre parlato in una maniera che loro capirebbero esattamente quello che voglio dire. Io avrei detto, guardatevi dagli lieviti dei farisei, e loro non voglio dire del fatto del pane, lo so che avete dimenticato, ma non voglio dire questo. No, no, Gesù non te lo spiega niente. Lo dice, loro comprendono male, e Gesù è frustrato. E dice, ma com'è? Io sto parlando di cose profonde, vuoi parlare di panini, e di ma... Perché era frustrato Gesù? Perché Gesù voleva che loro capissero che anche se sono uomini, erano uomini che erano veramente vivere una vita normale, naturale, eccetera, che avevano fame e queste cose qua, ma che lui voleva che loro capissero nel momento quando Gesù diceva qualcosa, che loro comprendessero di cosa stava parlando. Se non era tanto importante, Gesù non sarebbe nemmeno stato frustrato. E l'ha fatto molto spesso, come dicevo. Ma il fatto è questo. In effetti era molto logico quello che i discepoli hanno compreso. Se io fossi stato lì avrei detto a Gesù, ma Gesù devi avere pazienza, no? E guarda, loro hanno dimenticato il pane, no? La connessione è giusta. Lievito, pane. Non comprate i panini dai farisei, no? È logico. Naturalmente parlando, è molto logico che i discepoli avevano compreso che parla del fatto che avevano dimenticato il pane. Ma Gesù, anche se questo era logico, Gesù dice: avreste dovuto comprendere quello che voglio dire. E Gesù, vediamo che nel processo con i suoi discepoli, lui ha cercato di allenare i suoi discepoli a comprendere quello che lui stava dicendo. Lui vuole insegnare ai suoi discepoli di essere online, di comprendere quello che lui sta dicendo sempre, anche di ascoltare. Sapete, voi potete ascoltare questa predica offline o online. Diciamo insieme: offline, offline. Online. Online, offline, offline. Online. Online. Io ho predicato questa predica da noi in chiesa un paio di settimane fa. E l'ho detto alla chiesa nostra, forse la predica in tutto l'anno 2016, la più importante che ho predicato qui, perché ho notato che molto viene deciso dal fatto se siamo online o offline. Certe volte mi siedo insieme ai miei leader e io chiedo: ehi ragazzi, siamo online o offline? Perché se siamo offline possiamo parlare della stessa cosa, ma sentiamo un'altra cosa. Quindi non sarebbe male, anche come chiesa, da oggi in poi, che tu chiedi al gruppo di casa: ehi, siamo online o offline? È molto importante essere online, più possibile. Stesso capitolo, Matteo 16, verso 13. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: offline. Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia e o uno dei profeti, no? E poi Gesù gli disse: e voi chi dite che sono io? Quindi ora non puoi più dire quello che hai detto all'altra gente, non puoi più prendere la pagina che hai già scaricato di quello che hai sentito dall'altra gente. Devi essere online per rispondere in una maniera giusta. E Pietro, guarda un po', Pietro è online. Pietro dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù, replicando, gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne, in altre parole, non offline, no, non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che era nei cieli. In questo momento tu eri online e ha detto l'unica cosa giusta, non hai ripetuto quello che dicono gli altri. Sapete che è possibile avere una relazione con Dio offline? Avere una relazione con Dio basata su quello che altri dicono, basata su quello che i tuoi genitori dicono su Dio, basata su quello che il pastore dice su Dio. Ma è molto importante che noi abbiamo una relazione con Dio che è online, dove tu conosci Dio te stesso, dove tu ricevi tu stesso da Dio e non soltanto quello che altra gente ha detto riguardo Dio. Si può anche leggere la Bibbia offline. C'è gente che dice: ma non leggo più la Bibbia perché non mi dice niente. Prova ad andare online. Prova ad andare online. E vedi che la Bibbia è diversa. Molti programmi dell'internet non funzionano se sei offline. Lo sai che è successo ultimamente? No, eravamo in Italia, a Napoli. Io ho messo il telefono e c'è questo Google Map, no? per trovare una strada. E ho messo tutto nella maniera esatta, ma mi voleva mandare sempre nella parte sbagliata. E anche là ho scoperto: non sono online, per forza! Mi dice di girare, girare, girare. Appena sono andato online, sapeva esattamente dove devo andare. La vita è così. Ragazzi, quando noi siamo offline, la vita ti manda a sinistra, a destra, dappertutto. Appena vai online, con Dio, ti manda direttamente dove devi andare, senza perdita di tempo. Non devi nemmeno ripetere gli errori dei tuoi genitori. Io dico sempre ai giovani: non fare gli errori dei tuoi genitori, questa è scemenza. Fai errori nuovi. Se tu ripeti quelli dei genitori, mi dispiace, ma fai qualche cosa di nuovo, no? Almeno. Perché ho detto questo? Non fa niente. Sapete la differenza tra un cristianesimo che è veramente vivo e che porta vita? La differenza tra un cristianesimo così e la stessa gente che si chiamano cristiani, ma non rappresenta quello che Dio dice è il cristianesimo. Questa è la differenza. Uno è offline, si ripete quello che sappiamo, che abbiamo sempre fatto prima, e un altro è online. Fa quello che dice il Signore oggi. Ha un'espressione che Dio dà alla sua Chiesa oggi. Perciò come Chiesa è molto importante essere online. Essere connessi con Dio. E non soltanto ripetere quello che hanno fatto i nostri padri. Alcune tradizioni dobbiamo mantenerle, molto forti, ma certe cose Dio dice cambiatele, bisogna essere online, è molto importante. Stesso capitolo, Matteo 16, verso 21. Matteo 16, 21. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi. Essere ucciso e risuscitare, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Che bello! Che bello, eh? Leggiamo la Bibbia, immagina un po'. Il pastore Mirko si alza un giorno e dice, Signore, mi ha dato una visione, mi manderanno in prigione. Quando se vai in una missione, non so, in un'altra parte del mondo, io là sarò incarcerato, mi maltratteranno e mi uccideranno. Cosa direste voi? Non andare. Io noi diremmo non andare. E che ha fatto Pietro? Ha fatto proprio quello, ha detto non andare. Guarda la storia qui. Dice, anche se Gesù ha detto risuscitò nel terzo giorno, loro già erano altrove con la testa, non hanno nemmeno sentito la risurrezione. Erano così pieni di angoscia, pieni di... Non sentono nemmeno, risuscitano, no, non sentono niente. Era tutto negativo. Pietro, trattalo da parte, immagina qua, Pietro prende il figlio di Dio da parte... E cominciò a rimproverarlo. Ragazzi, quando noi siamo offline, facciamo cose pazzesche. Pazzesco. Prende il figlio di Dio e dice, guarda qua, vieni qua. Dice, Dio non voglia, Signore. Guarda qua, dice a Dio, Dio non voglia. E dice al Signore, Signore. Come ti ho appena detto che devo morire, com'è? Mica sei schizofrenico, no? Dice, Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Sai, essendo offline, uno è molto amorevole, pieno di compassione, offline. Era così offline, così off, che Gesù dice a lui, dice, ma Gesù voltatosi disse a Pietro, vattene via da me. C'è gente che dice, ma sai, il nostro pastore è quasi come Gesù, ma noi vorremmo avere Gesù come pastore. Sei sicuro? Non penso che il pastore Mirko ha mai detto a qualcuno di voi, vattene via da me, Satana. Eh? Comunque, vattene via da me, Satana. Dice, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Guarda, di nuovo, come i discepoli un paio di giorni prima, sesto capitolo, erano logicamente offline. È logico che se il Salvatore del mondo, il Signore, il tuo amico che ti ha trasformato la vita, che ti ha mostrato un mondo nuovo, che ha dato se stesso per te, eccetera, eccetera, se lui dice la gente mi maltratterà e mi ucciderà, è una cosa molto umana. Dire no! L'avete detto anche voi, direste al pastore, no, non andare. Una cosa molto normale, ma guarda come reagisce Gesù a una cosa che è molto umana. Noi diremo, ma dai Gesù, non esagerare. Ma sapete che in questo momento Gesù era anche un uomo. Certe volte noi pensiamo Gesù era il figlio di Dio, sì, è andato alla croce senza problemi, così, no? Ha passeggiato verso la croce, si è fatto uccidere, non sentiva niente. No, no, no. Gesù era una persona che stava combattendo dentro di sé, perché nel giardino dice al Padre, se è possibile, cerca di avere un altro piano. E poi dice, ma la tua volontà sia fatta, lo stesso. E quindi Pietro, un amico di Gesù, viene e gli dice, no, no, non, tu non devi morire. E l'umanità di Pietro, l'essere, reagire in una maniera umana, in una maniera normale, Gesù chiama questo comportamento satanico. Dì insieme a me, wow, wow. Wow. Leggete la Bibbia come la leggo io, certe volte io leggo la Bibbia e dico, mamma mia, oh! Gesù, Gesù, stiamo affondando, c'è l'acqua nella barca, non fuori la barca, nella barca, stiamo morendo. Gesù si alza e dice, ma che problema avete? Com'è che problema avete? Acqua in barca, si va giù, noi moriamo. Noi umani non volere morire. Tu ci hai fatto così. La differenza tra una persona che segue Gesù è che tu ti comporti certe volte in una maniera non umana, ma non in una maniera negativa. Cominci a fare cose che il diavolo non ha programmato. Perché il diavolo sa, persona offesa, persona cambia direzione. Normale. E premi il bottone dell'offesa nella tua vita, boop, e premi di nuovo, come ti chiami tu? Stefania, e Stefania non reagisce, preme di nuovo, manda un'altra persona che offenda Stefania, preme, offesa, e Stefania non si fa offendere. E premi di nuovo, ma che funziona il coso? Premi di nuovo, manda un'altra offesa. Il diavolo esce pazzo quando noi non agiamo come esseri umani certe volte. E quando la Chiesa poi non comincia a dire 2 e 2, sempre 4, comincia a dire ma con Dio certe volte 2 e 2 è 100. Allora il diavolo esce pazzo e sa che ha perso controllo su di voi. Perciò la vita online è molto importante, la vita connessa col Signore, con lo Spirito di Dio. È un altro modo di dire, essere connessi con Dio, avere questa connessione con Dio che influenza le tue decisioni, che influenza il modo come tu vedi la tua vita e come tu vedi il mondo intorno a te. Se Gesù deve soffrire e morire, non può essere giusto. Quindi Pietro va e rimprovera Gesù. Gesù lo chiama Satana. Perché è successo questo? Perché Pietro si è fatto distrarre dalla sua umanità. Sentite, credenti, o non parla a una persona che ancora non sa niente di questa fede in Dio, tu sei nato forse nella Chiesa Cattolica, non so dove, tu non hai, tu sei in questa chiesa e tu pensi, mamma mia, non sapevo che c'è forse un mondo del genere, di gente che così. Quindi non parlo a te, sto parlando ora, in questo momento, a gente che è già credente da molti anni. Sapete che anche dopo essere credente per molti anni, noi possiamo cominciare a essere offline, non essere online. E quando Dio ci parla, diamo le risposte sbagliate. Quando la Chiesa a volte va in una direzione, cominciamo ad andare in un'altra direzione. Oppure succedono cose nella nostra vita e cominciamo a credere troppo a quello che vediamo. Quello che è successo con Pietro, la sua umanità è diventata così forte che lui non poteva più essere in quel momento online come era altre volte. C'è un'altra situazione nella Bibbia dove Gesù predica e dice alla gente, se voi non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non avete niente a che fare con me. Se tu senti una predica del genere offline, sai che succede? Ti scandalizzi. Ti scandalizzi. Ma sentite che ha detto il pastore Mirko oggi? Ma come si permette di dire questo? Se sei online, yeah! Amen! E Pietro, siccome era online, lui non aveva capito la predica. Quando Gesù ha detto ai discepoli, perché tutta la gente se n'è andata, gli hanno mollato Gesù, no? Se ne vanno tutti, perché erano tutti scandalizzati. La Bibbia dice, erano offesi con Gesù. Gesù si rivolge ai discepoli e dice, ve ne volete andare anche voi? E Pietro dice, no, guarda, io non ho capito tutto quello che hai detto, però una cosa lo so, noi saremo con te perché tu sei l'unico che ha parole di vita eterna. là era online. Non aveva capito tutto, ma era online abbastanza di dire, no, io sono online abbastanza di dire che questa chiesa io non la lascio. Rimango qui. E sono online abbastanza di sapere, un giorno capirò. Ok, arriviamo alla fine. Ui, 36. Ah, là. Ah, mi stanno dando più tempo per predicare ora. Oh, stai aumentando, guarda che bello. Ok, ok, ok. Hanno cambiato solo il colore ora, è bello. Che bello, cambiare il colore, grazie. L'ultimo verso della Bibbia, secondo Re, capitolo 6, verso 13. 2 Re 6:13 dice: allora il re disse, un re della Siria che era molto arrabbiato col profeta, perché quando il profeta sapeva tutto quello che la Siria voleva fare contro Israele, e il profeta diceva tutto al re di Israele, e quindi il re di Israele non poteva essere sorpreso in nessuna maniera, no? Quindi il re della Siria sapeva che io devo andare a catturare questo profeta qui, così ho una chance di vincere contro Israele. Quindi manda un esercito a catturare un profeta, no? Interessante. Allora il re disse: andate, vedete dov'è, e io lo manderò a prendere. Gli fu riferito che il profeta era a Dotan. Guarda, gli mandò cavalli, carri, numerosi soldati, i quali giunsero di notte e circondarono la città per catturare un uomo di Dio. Se fino allora Samuele non sapeva quanto lui valeva, quella sera lo sapeva. Manda un esercito per catturare un uomo di Dio. Comunque, il servo dell'uomo di Dio, che lavorava per il profeta, alzandosi di buon mattino per fare il breakfast, per fare la colazione e tutto, andò fuori e vide un gran numero di soldati con i cavalli e i carri, accerchiava la città. Il servo disse all'uomo di Dio: ah, mio signore, come faremo? Lui si sveglia e dice... non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Ed Eliseo pregò e disse: Signore, io voglio dormire un po' di più. Per favore, fallo andare online, così può vedere la prossima pagina. Quello è rimasto solo a quello che vedono gli occhi, non vede oltre. Il Signore gli aprì gli occhi del servo e vide ad un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. Sentite, offline la situazione è disperata, online non è disperata. Sto parlando con voi, sto parlando con alcuni qui. Offline la situazione non ha nessuna speranza, online c'è una speranza. Offline è una sconfitta, ma online è una vittoria. Sentite, è una vittoria. Offline sembri di avere solo difficoltà. Online il Signore ti sta preparando. Il Signore ti sta preparando. Offline, forse i tuoi figli si stanno allontanando da Dio. Online si stanno avvicinando al punto dove Dio li incontrerà. Offline, quando Abramo andava col figlio sulla montagna a sacrificare Isacco, se noi lo vediamo offline, ma Abramo non era offline, Abramo era online, perché quando il figlio dice: ma papà, ma dov'è? Abbiamo tutto quello che bisogna, il legno, l'altare, ma dov'è l'offerta? E Abramo dice: online Dio provvederà un'offerta. E in effetti, quando Abramo stava salendo da un lato della montagna, l'offerta stava salendo dall'altro lato della montagna. Tu puoi decidere oggi di rimanere offline. Certe volte le cose della vita, il dolore a volte, ci costringe a dire cose che sono offline, a non comprendere quello che Dio sta facendo, quello che la vita sta facendo, ma quello che Dio in quella situazione sta facendo per te. Una volta mia figlia è venuta da me, mia moglie, e ha detto: c'è un ragazzo che mi sono innamorato e forse vogliamo sposarci. Ho detto: oh, che bello. E la nostra figlia non stava andando col Signore, non si stava comportando come una persona che cammina con Dio, diciamo, no? stava facendo un po' di giri, la circonvallazione. Conoscete questo, no? Non diretto, ma... E ho detto, ah sì, sì, ok. Sì, sì, il ragazzo viene dall'Iran, è musulmano. Ma sapete, mia moglie e io abbiamo sentito, no, lascia stare. Se tu in quel momento come parente sei offline, sai cosa fai? Ah! Non sono la tua figlia, addio, tutti quanti. Ah! In quel periodo il Signore ci ha detto, rimani online, non ha detto questo, però, ma era una cosa simile. Abbiate fede in me. E poi mia figlia si è sposata con Nive. E Nive ha cominciato a fare domande. Di cosa facciamo noi, di sta chiesa qua, no? E mia figlia telefonava, papà, vuole sapere che cosa le dico a lui? E dice, di questo e questo. E lei rispondeva quello. Poi gli telefonava, vuole sapere che significa quando la Bibbia dice questo. E io dicevo, oh, facendo la storia, la lunga storia corta, i due si stanno avvicinando al Signore. Vengono alle riunioni, sono aperte a Dio. Io potrei vedere questo offline e dire, ah, Signore, che stai facendo? Oppure essere online. E c'è gente qui che possono identificarsi con noi, con me. Vero? E tu guardi la tua famiglia, la tua situazione lavorativa offline, e Dio vuole aiutarti e incoraggiarti oggi a essere online. Alziamoci in piedi, per favore. Offline, pieno evangelo, è andato molto avanti. Online, voi non avete nemmeno iniziato. Sentite, voi non avete nemmeno iniziato, perché Gesù, Dio sta facendo qualcosa di nuovo tramite voi. Sta facendo qualcosa. Offline potresti dire, ma che bella chiesa, è una bella chiesa. Ah, siamo arrivati. No, non avete nemmeno iniziato ancora. In effetti non siete nemmeno nati ancora. Tutto questo era 9 mesi, sai, un giorno e 1000 anni, no? 9 mesi di gravidanza, non so quanti anni c'è questa chiesa. È tutto preparazione. Questo è quello che Dio vede online. Offline Gideone dice a Dio, ma io sono piccolo, non ce la faccio. Online dice il Signore, no, online c'è un'altra immagine di te nel cielo. Chiudi i tuoi occhi in questo momento, per favore. Chiudere gli occhi. Se non sei abituato a chiudere gli occhi, non aver paura, non fa niente, non ti prende nessuno il borsellino dalla tasca, niente. Rilassati, chiudi gli occhi. E sai, nella chiesa là ho sentito dire così, prendono l'offerta, ti fanno chiudere gli occhi. Vi chiedo di fare un'altra cosa. Alzate almeno una mano così, alzate una o due mani al cielo così, verso il cielo. Signore, c'è una persona qui, almeno una persona, grazie, almeno una persona, ma definitivamente una persona qui. Quando tu ti vedi nello specchio e quando sei offline vedi una persona che tu in effetti non sei. Dio vuole aiutarti oggi, ogni volta che ti vedi nello specchio, di andare online e di vedere un'altra persona, la persona che Dio, il cielo, vede. Io non sto parlando di una cosa fisica, sto parlando della persona che tu vedi e tu non vorresti essere così, vorresti essere come altre persone. E Dio dice a te, se tu vai online, se tu sei connessa con me, se tu mi lasci parlare a me di te, se tu senti la mia voce più che la tua dotazione, più che quello che tu sai fare e che non sai fare, quello che hai studiato, non hai studiato, il Signore ti mostrerà qualcosa che cambierà la tua vita. Spirito Santo, io ti chiedo di venire in una maniera che tu sei attivo qui in questa sala e aiuti a tutti noi a comprendere quello che tu dici, aiutandoci a essere online. Vai dal Signore, se tu sei una persona che dici, ma è vero Gianni, io molto spesso sento in una maniera sbagliata, non capisco sempre quello che Dio dice, vai da Dio e di Signore, allenami a essere online. Voglio essere online con te, Signore. Forse sei tu la madre, il padre, che vede i figli offline. E oggi il Signore vuole dire, guarda, voglio che tu vai online, che non sei disperato, che non sei scoraggiato, ma sei incoraggiato, sapendo che io ho un appuntamento con i tuoi figli, io ho un appuntamento con tuo marito, ho un appuntamento con tua moglie, ho un appuntamento con la gente intorno a te. Spirito Santo, io ti chiedo anche che tu aiuti questa chiesa, pieno Evangelo, il team anche, a essere, rimanere online sempre, a rimanere sempre online con te, Signore, essere connessi con te, così loro comprendono quello che tu stai dicendo. Signore, io ti chiedo che questa chiesa non si adegua a quello che la statistica dice che è possibile in questa zona, quello che è possibile che hanno fatto altri, i limiti. Signore, io ti chiedo che loro sono sempre online, che vedono quello che tu vedi, che vedono il futuro che tu vedi. Io ti chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie.